La parabola del fattore infedele costituisce certamente una delle parabole difficili da interpretare, perché la morale da essa trasmessa è che un uomo ingiusto viene lodato nonostante si sia macchiato di disonestà, di furto, di intrico e inganno. Compreso però una volta il messaggio, viene spontaneo ringraziare Dio per il caleidoscopio di verità che si trovano nel suo insegnamento atto a farci vivere giustamente e temperatamente. Leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 16 con lo scopo di mettere in pratica la volontà di Dio. 1:15. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. Il fattore disse fra sé: che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono capace. Di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceva in casa sua, quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 350 litri d'olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse a un altro: e tu? Quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. I farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Innanzitutto, non sarà mai troppo ricordare che la prima lezione da trarre in una parabola è che essa non va mai al di là di ciò che lo scrittore voleva esprimere. La parabola è proposta per raggiungere uno scopo, colpire un bersaglio, e mai per stabilire dottrine di fede. I particolari in essa descritti servivano per rendere il racconto più vivace e verosimile. Quindi, lo scopo di ogni cristiano nell'interpretare le parabole sarà quello di ricercare la verità centrale, subordinando tutti i particolari a questo principio. La parabola serve come l'illustrazione di un principio e non per farne una fonte di dottrina. Un altro obiettivo nell'interpretare le parabole deve essere quello di distinguere tra l'applicazione e ciò che il testo sostiene. Per secoli si è tirato fuori dalle parabole tutto ciò che si voleva asserire e che non si poteva trovare in altre parti della scrittura, come per esempio il purgatorio, l'ordine della successione del Papa, eccetera. Spesso i padri della Chiesa le hanno interpretate come allegorie nelle quali ogni dettaglio ha il suo significato. Così, per Origene, le cinque lampade delle Vergini Savie sono i cinque sensi. Un predicatore insegnava che l'espressione dell'amata rivolta al suo amato nel libro dei Cantici dei Cantici: il mio diletto è per me un sacchetto di mirra. Egli riposerà tutta la notte fra le mie mammelle. 1:13. Voleva intendere che il credente riposa tra l'antico e il nuovo patto. Un'applicazione sempre accettabile se non fa pugni con le dottrine della scrittura, ma non possiamo proporre una lettura della parabola che non sia in armonia con ciò che sta esponendo. Se si narra di un tesoro nascosto nel campo, MT 13:44, qualsiasi interpretazione deve tenere conto che si tratta di un tesoro e non qualcosa di relativo. Inoltre, quando esaminiamo i racconti biblici dobbiamo compiere una distinzione. È necessario dividerli in tre gruppi: parabole, favole fatti storici. Si tratta di parabola quando il racconto è tratto dalla vita ordinaria per illustrare una verità morale o religiosa, come per esempio quella del buon samaritano. Si ritiene favola quel racconto in cui piante, animali o cose senza vita sono rappresentate come se fossero fornite di attributi umani e avessero facoltà di ragionare e di parlare. E di queste nella Bibbia ve ne sono due. Una la troviamo nel libro dei Giudici, 9:7-20, e l'altra nel secondo libro dei Re, 14:9-11. Per fatto storico, invece, intendiamo quel racconto tratto dalla vita vissuta in cui i personaggi compaiono col proprio nome. Così, il racconto di Lazzaro, descritto in Luca 16:19-31, non può essere ritenuto una parabola, perché in esso è nominata una persona con il proprio nome. Leggendo questa parabola, possiamo subito notare che Gesù si sta rivolgendo ai suoi discepoli, e non a tutti gli uomini. Anche questo è un dato fondamentale per una corretta interpretazione, perché non è possibile applicare ciò che è scritto in modo indiscriminato a tutti gli uomini. La chiamata a seguirlo rivolta da Gesù ai discepoli non si può ritenere indirizzata a chiunque, anche perché la chiamata normale di un credente è essere un testimone nel luogo dove risiede e vivere la sua esistenza in modo tale da suscitare interesse per Cristo. Gesù con questa parabola spiega che tipo di condotta devono avere i suoi seguaci in ogni tempo. Non devono amare le ricchezze, ma farsi degli amici con il denaro, definito ricchezze ingiuste. Come interpretare questa ingiunzione? Il denaro o la moneta corrente è dunque ingiusto? Se è ingiusto, perché i credenti ne fanno uso? Prima di tutto, possiamo dire che in un certo qual modo l'uso del denaro è sempre ingiusto, perché il credente usa qualcosa che non gli appartiene. In effetti il principe di questo mondo è Satana e ogni cosa è sua. Come del resto il diavolo ha sostenuto davanti a Gesù quando lo tentava. Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa a mei est Antico Testamento A, d'Antico Testamento A, e la do a chi voglio. Luca 4:6. Gesù stesso conferma questo diritto di appartenenza in una conversazione fatta con i farisei e gli erodiani, cioè coloro che sostenevano il partito di Erode, quando, per tentarlo, essi gli chiesero se era giusto pagare le tasse oppure no. In quell'occasione Gesù disse di rendere a Cesare quello che è di Cesare. Non tutti, compresi alcuni credenti, hanno fatto caso al verbo usato da Gesù nella risposta. Il verbo è rendere e non dare. Si rende o si restituisce solo ciò che appartiene a un altro. Se avesse ordinato di dare a Cesare quello che era di Cesare, Gesù avrebbe dato per scontato che chi usa il denaro ne è il possessore. Perciò il credente è un amministratore di beni di un padrone ingiusto, che possiede ricchezze ingiuste ed è chiamato ad usarle saggiamente. Come usarle saggiamente? Com'è amministrare ciò che è illecito? Per prima cosa non mettendovi il cuore, perché il cuore dell'uomo è dove si trova il suo tesoro, e, se il tesoro è in cose ingiuste, si amerà ciò che è ingiusto. Come sapere se si ama il denaro? Dalla difficoltà che abbiamo nel donarlo, e, anche, se non doniamo, allegramente per nessuna opera destinata al regno di Dio. Un portafoglio che dona è garanzia di una fede vera. L'ordine di Gesù per i suoi discepoli è di gestire il denaro per compiere del bene alle persone. E questo può avvenire in mille modi e in mille maniere. Lo scopo di questo gesto altruistico è di portarle alla conoscenza della verità e di Cristo in modo che queste, una volta ravvedute, le possiamo vedere in cielo, definito nella parabola Tabernacoli Eterni. E per questo che i farisei che amavano il denaro sogghignavano. Chi non è fedele nell'amministrare le cose terrene rappresentate dalle ricchezze ingiuste, dai beni degli altri, dalle cose minime, non può essere fedele nell'amministrare i beni celesti, cioè quelli che appartengono a Dio. Ritroviamo lo stesso principio nella lettera di Paolo ai litigiosi corinzi. L'apostolo li invita a giudicare le cose minime, cioè le situazioni di questa vita, perché avrebbero giudicato gli angeli, 1:6-1:9. Per molti cristiani è incomprensibile come il padrone abbia lodato il fattore, ma la scrittura afferma esplicitamente che il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Quindi il padrone non giustificò l'operato iniquo del fattore, non fece altro che prendere atto della determinazione e dell'accortezza di questo. Il comportamento dell'uomo ricco e del fattore non deve comunque distogliere l'obiettivo della parabola, usare bene il denaro per aiutare il prossimo, al fine di ritrovare poi il frutto di questo gesto nel cielo. Questo significa mettere in pratica l'invito di Gesù: fatevi dei tesori in cielo. Del resto, il frutto di una certa liberalità spesso sia pure sulla terra, come invita saggiamente l'Ecclesiaste: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7, e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Eci 11:1-2. Vi sono meravigliose promesse per coloro che si occupano dei bisognosi. PR 19:7. SL 41:1. E le realizza chi per fede compie la volontà di Dio in merito, che poi i figli di questo secolo, cioè gli increduli, siano più accorti dei figli della luce, cioè i credenti, nelle relazioni con il prossimo, è vero. Perché essi nella vita ricavano maggior profitto per i propri interessi, ma così deve essere. Diversamente, il credente deve esaminare la sua fede. Perciò, la morale della parabola è che il credente deve impegnarsi per realizzare i suoi obiettivi celesti con la stessa determinazione usata da chi ha obiettivi malvagi, perché è destinatario di un tesoro maggiore, incorruttibile, per il quale è disposto a rinunciare a tutto, per ottenere ciò che non perderà mai. MT 13:44. Novembre 2009. Ellero.